La vita in un film di Franco D'Assisi. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? L'irresistibile Carlo Verdone di Bianco, Rosso e Verdone. Buonasera da Franco D'Assisi, la puntata odierna, l'ultima puntata di questa calda estate della vita in un film. Una piccola retroscena di lavorazione, un dietro le quinte. Stavamo lavorando a questa puntata, ci siamo detti ci vorrebbe qualcuno che mettesse insieme un po' tutti i vizi, le manie, il modo di essere degli italiani, un Alberto Sordi dei nostri giorni, e ci è venuto ovviamente in mente Carlo Verdone. Ma era proprio difficile racchiudere tutto in un film. Come si fa? Come si fa a scegliere un film di Verdone che sia più identificativo di altri, di un modo di essere degli italiani? Allora, volendo fare il gran finale, abbiamo detto, beh, allora facciamo così, chiediamo alla gente questa volta, visto che il nostro è un programma sull'identificazione della gente con i film, in quale film di Carlo Verdone si è rivista, perché sicuramente dentro una filmografia così vasta, così varia, in una galleria di personaggi così diversi tra di loro, ma così uguali agli italiani e ai loro difetti soprattutto, beh, sicuramente ci deve essere qualcosa di tutti noi, e forse tutti noi ci siamo qualche volta rivisti. Chissà se nel pignolo navigatore, viaggiatore che prepara, come avete sentito, le valigie, prepara soprattutto il suo percorso chiedendosi se pioverà in questo o in quel punto e in quanto tempo potrà arrivare a destinazione, o chissà in quale altro degli straordinari personaggi di Carlo Verdone, che è appunto il nostro ospite di oggi. E allora fra poco lo sentiremo parlarci dei suoi personaggi, parlarsi del suo modo di vivere l'Italia di oggi. Davvero molto interessanti le sue dichiarazioni. Ricordo, 800 24 00 24 è il numero di telefono per partecipare alla vita in un film, per portare a casa gli ultimi biglietti, l'ultima infornata di serate di grande cinema che abbiamo regalato per tutta questa estate, nelle 5 settimane in cui siamo stati insieme. E allora noi cominciamo subito con Carlo Verdone. Dicevamo, galleria di personaggi che si sono evoluti nel tempo, si è passati appunto dall'ingenuo credulone al pignolo, piuttosto che poi passare al maniaco depresso, comunque alla vittima di psicanalisi, per arrivare poi ai giorni nostri. Un'evoluzione che segue anche l'evoluzione interna della persona Carlo Verdone. Sentiamo. Sono state fatte, secondo me, chiaramente sempre tenendo presente la mia maschera, perché la mia maschera cambia. Quindi la mia maschera ai tempi di Un Sacco Bello è in un certo modo, quindi è una faccia un po' di gomma che si trasforma, lo stesso in Bianco, Rosso e Verdone. Poi incomincio a lasciare il virtuosismo e affronto un personaggio unico. Però è chiaro che io sono lontanissimo da tutti i personaggi che ho interpretato, perché se fossi vicino non li avrei potuto interpretare nella maniera più assoluta. Per essere un buon attore devi cogliere il DNA di ciascun carattere e svilupparlo attraverso una tua percezione, una tua indagine psicanalitica, che poi alla fine io sono anche un po' uno psicologo, cerco anche di centrare appieno quelli che sono i lati fragili, ticchi, difetti di alcuni prototipi della società italiana. Alla fine devo sempre constatare che la realtà supera sempre la fantasia. Ecco, questo è il lato tragico. Io cerco di amplificare come una lente d'ingrandimento, ma vedo sempre poi dei soggetti che sono molto molto più eccessivi di quello che sto interpretando io. Però la decisione di chiudere la galleria di personaggi con Grande, Grosso e Verdone è stata criticata da molti. In realtà io lo ritengo un film straordinario quello, perché soprattutto nel secondo e terzo episodio, attraverso la maschera che ho io adesso, ho interpretato perfettamente il ruolo di due padri, uno sinistro che è il professore che praticamente tra virgolette sevizia il figlio attraverso un'educazione ferrea, rigida, poi lui è la persona più amorale del mondo, e poi quel personaggio sempre in Grande, Grosso e Verdone che ho interpretato con la Gerini, di quel cafone moreno che con la famiglia e un figlio meglio vanno in un hotel di grandissimo prestigio a Taormina e si comportano esattamente come si comportano, secondo me, tante persone di pessimo gusto, di grandi ignoranti, di grandi grifoni che vediamo oggi. Allora, la suite 22 ai signori. Per numero. Grazie. E al signorino la suite 23. 23, bucio de culo. Sono ragazzi. Se mi volete seguire, vi accompagno alle stanze. Grazie. Sì. E allora 800 24 00 24, parliamo dell'Italia di oggi attraverso le maschere di Carlo Verdone, il nostro ospite qui alla Vita in un film. Le vostre chiamate per partecipare e dirci in quale film di Carlo Verdone avete visto un pezzo di voi stessi. Siamo già in collegamento con il primo ascoltatore, Paolo da Verona. Buonasera Paolo. Non abbiamo ancora Paolo da Verona, allora con calma lo recuperiamo. Pensavo di averlo già qui a disposizione, invece sta fluttuando nell'etere la telefonata per arrivare nel nostro banco mixer. Allora noi andiamo avanti ascoltando un'altra clip. Abbiamo detto le manie, che sono quelle del Verdone più vicino alla psicanalisi, in una fase più matura della sua carriera. Un film di questi che hanno raccontato appunto queste manie è stato Maledetto il giorno che t'ho incontrato. Abbiamo scelto una clip davvero straordinaria. Che hai? Niente. C'è qualche problema? No. Vogliamo parlarne? No, magari volevo sapere se ti era rimasta un po' di... Di che? No, quelle cose che dicevi, cos'è, quelle tisane, lì, passiflora, tiglio, che era le... Ti ho capito al volo. Sì. Vuoi il sacco? Copro tutto fino al delirio schifo. No! Io! Sei un genio, sei... Che fai? No, mitico, mi dato da 40. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. C'è un'anamnesi pazzesca, questa qua. Questa è da ultimo stadio. Io sono il penultimo. No, no, no, ma è dovuto alla birra, è pericolosissimo. Dai, cavolo, non si prendono le medicine così. E questo era Maledetto il giorno che t'ho incontrato. Intanto, fluttuando, la telefonata di Paolo è arrivata finalmente da noi. Buonasera, Paolo. Salve, ciao. Ciao, ciao Paolo. Allora, dacci un po' brevemente il tuo personaggio verdoniano di questa galleria. Ecco, io ho visto in Compagni di scuola proprio un insegnante che io avevo, un insegnante che ha fatto le stesse cose, cioè aveva quell'amichetta giovane, così tentava, tutti sapevano queste cose, ma lui era, diciamo, un po' stupidotto, ecco. E vedevo in questo insegnante l'identico di Verdone, come si è comportato, faceva queste scene così un po' imbarazzanti, un po' ingenue, un po' sciocche. Questo volevo dire. Perfetto, allora grazie Paolo per il tuo contributo. 5 serate di grande cinema per te con il cofanetto Wazoo e un pezzo te lo regaliamo di Compagno di scuola. Ho sbagliato festa, ho sbagliato villa. Infatti mi coincideva tutto, il cancello, il chiosco, il vialetto. Solo che quando sono entrato mi ha preso un colpo, perché ho visto 200 teste bianche, tutti vecchi, quei rughe in faccia. Mi sono detto, ammazza come ci siamo ridotti. Io, molto fine. Sì, veramente di classe. La vita in un film. E allora ancora insieme, 800 24 00 24, abbiamo chiuso la prima parte della Vita di un film ascoltando una clip di Compagni di scuola. Vogliamo sentire però il parere di Verdone su questo film, un film che ha segnato anche forse una svolta, un irrigidimento, un tuffo nel cinismo dei personaggi di Verdone. La storia di quel film è molto strana, perché quando gli sceneggiatori che scrissero con me il film, Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, vennero a vedere la prima proiezione del film, rimasero colpiti dalla cupezza del film, dal cinismo del film, perché il copione non era così cinico, era un copione con delle cose dure, ma non fino a quel punto. Però io dissi, a me mi è venuto così, l'ho sentito così il film, e non so perché sono sceso verso questa malinconia, questo senso di solitudine, questa inquietudine. Il film fa anche ridere, è ovvio, però è un film che secondo me però rappresenta perfettamente lo stato d'animo forse di quel tempo, di quelle persone che avevano quell'età, di tanti desideri che non si sono mai avverati, di tante professioni che non sono andate a buon fine, di tanti matrimoni che non sono andati a buon fine anche loro. Quindi vedevo quella festa come una truppa di persone sole, incattivite in qualche modo, il gioco del destino che gli ha dato dei ruoli diversi da quelli che si aspettavano. E allora andiamo a Mauro da Milano all'800 24 00 24. Buonasera Mauro. Buonasera, buonasera. Allora, quale personaggio dalla galleria di Verdone? Allora, il personaggio direi simpaticissimo è quel professore medico che rimane vedovo e si risposa, quindi la coppia Verdone-Pivetti. Del film, onestamente, il titolo non me lo ricordo, però era eccezionale, e tant'è che spesso e volentieri fra amici, quando uno è troppo pignolo o fa dei ragionamenti un po' assurdi, ci chiamiamo vicendevolmente Fosca, perché il personaggio femminile si chiamava Fosca. Mi sembra si trattasse di Viaggi di nozze, detto così, però insomma effettivamente... possiamo chiedere conferma a Verdone. No, ma era Viaggi di nozze. Era Viaggi di nozze. Grazie anche a Mauro da Milano, due serate di cinema anche per Mauro, e ancora avanti con gli ascoltatori perché Arturo ci chiama da Caserta. Buonasera Arturo. Buonasera. Buonasera, allora. Io volevo ricordare... il classico stereotipo della persona che racconta la barzelletta in C'era una volta un cinese in coma. C'era un cinese in coma. Una barzelletta che lui cerca sempre di raccontare, insomma, pare che ci fosse anche Petrella all'interno. Sì, sì, non è il film più riuscito, diciamo, di Carlo Verdone, ma sicuramente c'era questa figura di questa barzelletta che cominciava tutte le volte e non finiva mai, però alla fine Verdone riesce a raccontarla. Grazie ancora ad Arturo da Caserta, 800 24 00 24. Noi abbiamo detto, aprendo la trasmissione, cercavamo un Alberto Sordi dei nostri giorni. Ovviamente è chiaro che non ci sono poi magari tante similitudini nel modo di recitare, nel modo espressivo, però in quello che Verdone rappresenta per il cinema italiano degli ultimi 20 anni, per intenderci, forse anche qualcosa di più, sì, in quel caso sì, ci sono tanti punti di contatto, lo sguardo sull'Italia, lo sguardo anche un po' dell'italiano medio, che è diventato un po' più come Verdone rispetto a come era prima, quando somigliava forse più alle macchiette di Alberto Sordi. C'è stato un film che è stato una sorta di passaggio delle consegne, almeno così è stato vissuto anche dalla critica, che è In viaggio con papà, regia di Alberto Sordi, e questi due attori a contatto uno con l'altro. E allora abbiamo chiesto a Carlo Verdone se, appunto, visto che lui è stato vissuto un po' dal pubblico come una sorta di erede, in questo senso la senta addosso questa cosa, questa sorta di eredità. No, non la sento, e ti dico subito il motivo. Sordi aveva una grandissima maschera, che era la maschera di Alberto Sordi, che entra, secondo me, perfettamente nella galleria della commedia dell'arte, come Brighella, come Pantalone, come Arlecchino. La maschera di Sordi è una maschera prettamente romana, che però condensa dentro di sé tanti lati tremendi, sinistri, cinici, buffi, perché poi lui era un grandissimo attore comico dell'Italia, quindi sì, diciamo che interpretava l'italiano medio, però Sordi era essenzialmente una maschera, e le maschere sono uniche, quindi non hanno eredi. Lui con quel film indubbiamente vedeva in me una persona che poteva continuare il suo lavoro, proseguire un po' quel pedinamento di italiani, e quindi mi ha voluto accanto. Devo dire che non mi ha tagliato nulla, anzi si è tagliato lui, mi ha lasciato delle cose a me, e di questo sarò sempre grato, perché ha dimostrato, ecco, la sua grande generosità, la sua enorme professionalità. Però le differenze tra me e Sordi sono enormi, perché Sordi non ha mai interpretato il ruolo serio di un padre di famiglia, in qualche modo, anche con dei problemi intimi, delle fragilità. No, ha sempre visto la famiglia come qualcosa di mostruoso. La moglie è grassa, i figli sono impresentabili perché uno è grasso, l'altro parla troppo romanaccio. Si è sempre vergognato della famiglia in qualche modo. In me certe volte c'è più assoluzione, c'è più bonarietà. Papà, ma che ti senti male? Sto bene, sto. Stai bene? Sì, sto benissimo. E non ho bisogno del tuo aiuto. Vattene per conto tuo e lasciami perdere. Cioè, sento voglia di scherzare. No, no, non stai mai addosso, sai che ti denuncio. Vattene via. Tu non hai più bisogno di papà. Papà, ma che... No, non c'è più papà. Papà l'hai perduto. Per te vai. Ma che l'altro. Ma che t'ha preso? Papà. 800 24 00 24, stanno arrivando tantissime telefonate qui alla Vita in un Film per parlare dell'Italia e degli italiani visti con gli occhi e con le maschere del cinema di Carlo Verdone. Abbiamo in collegamento Rocco da Modena, buonasera Rocco. Sì, buonasera a tutti. Allora, ci racconti un po' cosa ha visto, cosa ha scelto? Io ho scelto Cuore nella Tormenta, quello con l'Arena. Sì, sì, dove se non sbaglio il nostro Carlo Verdone era un ufficiale di Marina, se non ricordo sì, male. Sì, no? Si vedevano una ragazza in due, in poche parole, no? E perché quindi, lo ha scelto? Ho scelto perché, diciamo, mi ricorda una storia vissuto anch'io con un mio amico che diventavamo appunto una ragazza in due, io abbi la meglio, però a quel punto, cioè, diciamo alla fine. Però è un film stupendo per me, che oggi, insomma, si rispecchia un po', diciamo, nell'attualità di oggi, anche di vedere una ragazza è attualissimo, cioè io lo trovo un film attualissimo anche, anche oggi, quindi è interessante e divertente, è stato un film che a me, diciamo... Dove lei si è rivisto? Beh, dettagli piccanti, allora, da Rocco da Modena, grazie. Paolo da Verona, sempre all'800 24 00 24, Paolo. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Ci dica... Sì. Sì, volevo dire che un film che mi è piaciuto molto e il personaggio di conseguenza era Sergio di Borotalco. Certo. Mi piaceva molto perché è abbastanza sintomatico della giovanilità di molti. Cioè, credo che molti si siano riconosciuti un po' questo personaggio, in particolare la scena del negozio delle olive, che è diventato un cult, direi. Purtroppo non abbiamo trovato, ma abbiamo dovuto riempire i nostri file di decine, avremmo dovuto mettere di 50 film, quindi non era semplice. Non abbiamo a disposizione clip di Borotalco, ma sicuramente un altro film straordinario. 1982, ricordiamo, uno dei primi, insomma, come regista di Verdone, con musica tra l'altro di Lucio Dalla, quindi insomma anche una nobiltà musicale sicura. Allora, grazie anche a Paolo. Leggiamo anche qualcuno degli sms che ci stanno arrivando al 349-238-6666, perché c'è un ascoltatore, Michelangelo, che dice: ho un fratello che è uguale, spiccicato a Furio di Bianco, Rosso e Verdone, povera moglie, l'abbiamo sentito proprio in apertura di programma. Ma torniamo a Carlo Verdone, perché c'è una definizione di Sergio Leone che è straordinaria. Sergio Leone, che produsse un film per Verdone, lo definì l'uomo che guarda. Ecco, Verdone, secondo il grande Sergio Leone, era l'uomo, l'italiano, l'uomo che guardava la società. Allora noi abbiamo chiesto a Verdone: che Italia vede oggi quest'uomo che guarda sotto i suoi occhi? Orribile, non mi faccia questa domanda, perché la vedo veramente orribile. Non voglio essere disfattista, non voglio nemmeno essere la persona che elogia il passato per distruggere il presente, però francamente vedo un'approssimazione, un disfacimento dei valori, un'arroganza, soprattutto una non preparazione da parte di molti politici che fanno politica. Non c'è preparazione. Sento una cultura che sta perdendo pezzi continuamente e sento soprattutto una memoria storica che si sta dissolvendo, e quella è la cosa che più mi preoccupa. Purtroppo è un periodo superficiale dove non ci si stupisce più per nulla, anche per le cose veramente abiette. Non c'è più stupore, nel bene e nel male non c'è più stupore. È anche vero che ad ogni azione corrisponde con una reazione uguale e contraria, quindi secondo me arriverà il momento in cui la situazione si dovrà capovolgere a 360 gradi, non si può rimanere così. Ma regà, sapete qual è il problema? Che nessuno c'ha più niente da dire, è stato detto tutto. Pia moda? Sì. Una volta eravamo noi che si attaccavamo ai stilisti, va bene a dritta. Poi sono stati i stilisti che si sono attaccati a noi. E mo si attaccamo tutti al cazzo, si attacchiamo. Ora stella cadente! A stella cadente, là! Il desiderio, il desiderio! Oh, ci siete riusciti? A me non mi è venuto. Io non ho vista proprio. Ma che te vuoi desiderare? In questa Italia senza più capacità di immaginare e desiderare, abbiamo trovato in Viaggi di nozze, abbiamo trovato forse appunto il sunto cinematografico di quello che Verdone diceva con le sue parole. 800 24 00 24, ci abbiamo alla fine della trasmissione. Intanto impazza il dibattito se Sordi e Verdone siano uno, anzi l'altro, erede dell'uno. Ma insomma, ci piace quando poi il pubblico interviene, pubblico spaccato in questa definizione. Torniamo però da Carlo Verdone per fargli la fatidica domanda finale: in quale film Carlo Verdone ha rivisto un pezzo di sé? Beh, a me ha colpito molto American Beauty. Non è che mi senta così tanto vicino al personaggio di Kevin Spacey, però mi è piaciuta l'atmosfera, mi è piaciuta la crisi, come veniva raccontata, la crisi familiare, la storia dei ragazzi, la musica meravigliosa di quel film. Poi il finale di quel film non mi è piaciuto perché l'ho sentito come un errore, però chi se ne frega, perché il 95% del film era francamente un autentico capolavoro. Quindi forse, ecco, quel personaggio là in qualche modo mi affascina, mi piaceva perché era un personaggio fragile, debole, con i dilemmi e i problemi di tutti gli uomini di mezza età, insomma. Jenny, oggi ho lasciato il lavoro. Poi ho detto al mio capo di andare a fare in culo e poi l'ho ricattato per quasi 60.000 dollari. Passami gli asparagi. Mi meraviglio che tu possa essere così sprezzante con me lo stesso giorno in cui hai perso il lavoro. Non l'ho perso, non è mica. Ups, dove è finito il lavoro? L'ho lasciato. Ne ho piene le tasche di farmi trattare come se non esistessi. Voi due fate quello che volete, quando volete farlo e io non mi lamento. Se tu non ti lamenti, questo cos'è? Tu non ti lamenti. Non interrompermi, tesoro. E stiamo chiudendo allora questa puntata e questa stagione della vita in un film. Voglio citare Antonio D'Alecce, che non è riuscito ad arrivare in tempo e citava appunto Al lupo fra i film di Verdone nei quali ha visto un pezzo di sé. Noi chiudiamo, dicevo, la nostra trasmissione ringraziando Valeria Bernardi in regia, l'instancabile lavoro di Valeria Coffaro in redazione per tutto questo mese di cinema visto con i vostri occhi. Questo è stato l'esperienza della vita in un film. Quanto a me non mi resta che darvi appuntamento a domani sera, il sabato, tutti i sabati alle 18 con La Rosa Purpurea, il settimanale di informazione cinematografica di Radio 24. Grazie per averci seguito.